Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Lupik, tu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe rester. Willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tu Bene, mi hanno detto che le mie sigle sono veramente lunghe. Beh, lo faccio per dare tempo evidentemente a chi detesta il cabaret di spegnere la radio sentendo questa famigerata sigla. La trasmissione di oggi è una continuazione delle trasmissioni precedenti. Il discorso verte sempre su Iannacci, di cui nelle due precedenti abbiamo visto la prima produzione. Se vi ricordate, si era iniziati con la sua collaborazione con Gaber nel complesso I Due Corsari, in tempi assolutamente assurdi, quelli del Milano anni 50, in cui succedevano cose incredibili ben manifestate nel film Liquirizia, e di questo film abbiamo sentito anche alcune canzoni interpretate da Ricky Gianco e Gianfranco Manfredi, compagni di sventura di Iannacci e Gaber in quel periodo, o di Ventura direi meglio, trattandosi di corsari. Poi c'è stato il periodo L, di cui alla seconda trasmissione di mercoledì e sabato scorsi, e infine, per modo di dire, perché in fondo siamo solo a metà, c'è la trasmissione di oggi, che parla della sua collaborazione con Dario Fo. Sempre di questo si parla nel libro già menzionato, Enzo Iannacci Canzoni, e Fo racconta la nascita della sua collaborazione con Enzo così. Dice: nel 67, al 1967 chiaramente, al Teatro Gerò, noi scrivemmo L'Armando, Pretelliprando, O è son chi, Veronica, Il primo furto, tutte nate da una sua frase musicale o da una mia idea di testo. In realtà ci divertivamo moltissimo e passavamo interi pomeriggi a lavorare a casa di Nanni Ricordi. Enzo avrebbe dovuto continuare su quel filone. Oltretutto aveva un grande successo. Ha riempito in quel periodo il teatro per un mese di fila. Dopo Vengo anch'io del 68 e Ho visto un re del 69, abbiamo fatto insieme di recente Per la moto non si dà, ma ci vediamo poco perché è praticamente impossibile rintracciarlo. Enzo invece l'ha raccontata così. Dice: avevo conosciuto Dario Fo mentre stavo registrando con I Cavalieri Canta Gigi Mai. Gigi Mai era Luigi Tenco, notare in questi soprannomi. Appena conobbi Fo, gli feci sentire delle cose mie surreali. Lui mi portò a casa e mi fece ascoltare dei pezzi tra i quali c'era La Lampadina, sentita, se vi ricordate, la scorsa volta. Due giorni dopo la cantava al Derby, una specie di grosso cabaret di avanguardia proposto da Tony Renis. La gente si divertiva, vedeva sto tipo strano allampanato, e l'anno dopo Fo volle montarmi un recital da solo. Io gli dissi: «Maestro, lei è pazzo», gli davo ancora del lei. Ancora oggi il repertorio è praticamente quello di 15 anni fa. Quando ci rivedremo a lungo, magari andremo avanti di 20 anni. Il maestro è grande. Molto si potrebbe dire di questo legame di collaborazione tra Fo e Iannacci. E in effetti Manfredi nel suo saggio dedica parecchie pagine alla collaborazione di questi due grossi artisti. Prima però di parlarne, direi di sentire qualche canzone. La prima che vi faccio ascoltare appunto da questo spettacolo, che si chiama appunto 22 canzoni, è Veronica, che a me piace molto e che penso che sia una delle più famose di questo LP. Via canonica, con te non c'era il rischio del platonico, Veronica, con te. Questa era tipicamente Iannacciana. La prossima invece risente molto di più delle ballate di Fo, quelle in ambiente medievale. Landolfo, cronista del 1100, ci ha tramandato uno dei fatti più importanti della storia del Comune di Milano. La cronaca del giudizio di Dio, protagonista, prete Lipranno. Abbiamo cercato di musicarla con un certo impegno. E la dedichiamo a tutti quelli, e sono tanti, che pur essendo testimoni a fatti importantissimi, determinanti all'evoluzione della civiltà, neanche se ne accorgono. Ben visto dai poveri cristi, andò dall'arcivescovo grosolano in Sant'Ambrogio. Sei ladro e simoniaco, gli disse, venduto all'imperatore. Quel porco, cosa? Rispose l'arcivescovo infuriato. Come ti permetti, prete? Sono ex combattente. Ho fatto la prima crociata e anche la terza. La seconda no, perché ero malato. Prete di tanto rispose. Lo so, più di una città hai saccheggiata. Lo so, più di una città tu hai sanguinata. Ed ora a Milano tu vuoi inchiodata vederla prostrata. Lipranno a sto punto esigo il giudizio di Dio. Dovrai camminare sui carboni, si intende ardenti. Le fascine di legno 40 ci tende, le pago io. Se tu non uscirai per niente arrostito, io me ne andrò solo umiliato. Porto la città solo a pietà. Quaranta fascine furono approntate in una catasta. La gente veniva fin da Venegono e da Piandrate. Indietro solo spingete, per Diana, c'è fuoco, non lo vedete. Ma io non vedo niente, non vedo un accidente. Sono venuto da Como per niente. E io lo faccio lo stesso, disse il prete Lipranno. Ma le fascine 40 io non ce le ho. La gente portava le fascine fin da Piandrate, facevano un sacco di fumo. La gente tossiva, tossiva e piangeva, ma non si muoveva. Che popolo pio voleva vedere il giudizio di Dio. Ecco il momento, il grande c'è pronto. Dov'è? Era in fondo, è bianco a paura, poco magro, ma i piedi spogliati. Che piedi lunghi! La brace è rossa, e rosse son tutte le facce. Stan tutti con gli occhi sbarrati. Anch'io li ho sbarrati, però non vedo niente. È entrato dentro i carboni senza guardare. In mezzo è tutto sudato, ma non è bruciato. Le cose sono svenute, una partorito, ma in buona salute. Dai, non spingete, ma io non vedo niente. Ecco, è arrivato, Dio l'ha salvato. Gloria a Lipranno che mi hanno salvato. L'arcivescovo è scappato. Gloria a Lipranno, l'avete veduto. Gloria a Lipranno, io non ho visto niente. Gloria a Lipranno, i cani si è impennato, gloria di Brando, ecco è cascato, gloria di Brando, si è mezzo massacrato, gloria di Brando, e io non ho visto niente, gloria di Brando, non ho visto un accidente, gloria di Brando, sono venuto da Como, per niente, per niente. Questo è un suo scritto, Iannacci la dedica a tutti quelli che, pur essendo testimoni di avvenimenti veramente storici, non si accorgono di quello che sta succedendo loro attorno e finiscono appunto con non vedere mai niente. La prossima è molto più divertente, si chiama Il primo furto non si scorda mai. Il primo furto non si scorda mai, un vecchio ergastolano me l'ha detto. Comincia quasi sempre dai pollai, fuggendo con un pollo stretto al petto. Ero appena avanguardista, giovane incensurato, ero appena avanguardista. Io giravo per i pollai, per addestrarmi sul pollo, volevo farci un po' il callo. Pollai, io non ne trovai. Magro! Ma che rogna disastrosa, c'era anche l'oscuramento, la pioggia, la neve, anche il vento, ed in bianco venni a casa. In un pollaio grande un po' isolato, scassai la rete e dentro mi cacciai, e vidi un bel tacchino appollaiato, ero appena avanguardista, non conoscevo i tacchini, chi conosceva i tacchini era giovane fascista, quando ecco una mano allungai, era braccare il prenuto. Una beccata beccai che mi trovai svenuto. Venne in un ospedale, però in quello di San Vittore, quel tacchino micidiale era un'aquila imperiale. Ma che razza di destino, io fui spedito al confino, e poi sentì che fui condannato per vilipendio dello Stato. Perciò avete sentito in questo disco emergere la vena umoristica di Iannacci, che riesce a parlare di politica in maniera divertente. Anche per questo si staccò da Fo. Fo era molto più impegnato. La stessa versione di Vengo anch'io, che portò la popolarità a Iannacci, in Fo assume delle connotazioni, delle citazioni tali che lo collocano rigidamente nel periodo storico, mentre invece Iannacci lo si può rileggere in senso molto più universale. Poche canzoni di Iannacci si legano strettamente ad un periodo. Tra queste poche, una è quella che dà il titolo all'LP successivo, Sei minuti all'alba, che è di clima vagamente resistenziale, il che va bene, visto e considerato che in questo periodo stiamo attraversando, evidentemente commemorazioni varie, stiamo attraversando lo stesso identico clima. Da Sei minuti all'alba, quindi, vi mando senz'altro la canzone omonima. Sei minuti vestiti all'alba e gran caccia. 6 minuti all'alba e il prete è pronto già. Leggiamo che il padre a parla, gliel'ho detto padre de bum, mi chiamò pregata. Nella cella canto, canta una canzone. Sì, ma non è il momento, un po' d'educazione. Mi anca piangeria, il groppo è pronto già. Piangere d'accordo è perché mi anda a fucilare. Forse tember su scappa, o finite fa il sulda. Al paese mi sul turna, disertore mancia va. In montagna sono andato, ma l'altre coi ribelli mancia pa. Entra un ufficiale, mi offre da fumare. Grazie, ma non fumo prima di mangiar. Va la faccia offesa, mi tocca di accettar. Le manette ai polsi son già, e qui lì vanno tre a cantare. E strascino i piedi e mi sento mal. 6 minuti all'alba, Dio come le char. Tocca farsi forza, ci vuole un bel final. Dai, allunga il passo perché ci vuole dignità. Settembre su scappa, o finire fa il sulda. Al paese mi sul turna, disertore mancia ma. E su un treno carica, un'altra volta su scappa. Sono andato dall'altra coi ribelli mancia pa. Coi ribelli mancia pa. Forse tempo su scappa, al paese mi su turna. Come dicevamo, questa era molto più storicizzata. Sentiamo invece un'altra, cantata anche da Cocchi Renato, che ha riscosso un certo successo, direi, e che è molto conosciuta. Si chiama Ho visto un re. Dai, dai, scritta sì, mi ci provi, provi, sì, scritta sì, dai, dai, scritta sì, vabbè, sì, dai, dai, scritta sì, mi ci provi, sì, ho visto un re, sarà

Sera.